Focus Economia. Le 17:08 minuti, 27 secondi. Buonasera gentili ascoltatori e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia da Simone Spezia. Naturalmente la giornata di oggi è dominata, come avete già sentito nei nostri giornali radio, da due storie. La vicenda di Fiat, l'assemblea straordinaria con la quale si è varata la divisione tra il settore auto e il settore cosiddetto industrial, ossia anche appunto veicoli agricoli e non solo. Tra l'altro arrivano già alcuni messaggi su questo fronte, ci chiedete sul tema della competitività delle auto stesse. Anche questo è un tema che affronteremo, perché ci sono i dati sulle immatricolazioni che su Fiat sono particolarmente negativi. L'altro grande tema di oggi sono le previsioni diffuse dal centro studi di Confindustria, che segnala un rallentamento, come già avevano fatto alcuni istituti internazionali nei giorni scorsi, ma che in questa occasione il Centro Studi di Confindustria in questa occasione ha voluto porre l'accento soprattutto sul tema dell'evasione fiscale, un'evasione fiscale che viene sostanzialmente definita insostenibile, che viene definita soprattutto in crescita nell'ultimo periodo, un sommerso che viene indicato in circa appunto il 20% del PIL. Questo per quanto riguarda Confindustria. Per quanto riguarda la situazione dei mercati, evidentemente non sono stati particolarmente confortati da dati americani, in realtà piuttosto positivi o quantomeno non negativi. L'America in questo momento è in lieve flessione, il Dow Jones cede lo 0,08%, il Nasdaq lo 0,04%, lo Standard & Poor's 500 lo 0,29%, e le cose non vanno un granché bene nemmeno in Europa. In Italia il FTSE Share cede lo 0,80%, il FTSE MIB lo 0,87%, con pochi titoli che si tengono in positivo: Luxottica che guadagna l'1,82%, l'Automatica l'1,31%, ma sono tutte più o meno per motivi specifici. Insomma, la tendenza è al ribasso, la peggiore Unicredit che cede l'1,94%, e Fiat naturalmente in una giornata come oggi che cede l'1,92%. Giocano certamente i dati sulle immatricolazioni, gioca anche il fatto che il titolo è cresciuto molto in borsa nell'ultimo periodo. Euro che quota 1,30,93 contro dollaro. Vedremo di toccare anche brevemente il fronte economico della riunione dei capi di Stato e di Governo oggi a Bruxelles. Nei GR vi stiamo riferendo del fronte più puramente politico, ossia le tensioni tra Francia e Unione Europea e Bruxelles sul tema dei Rom. Appunto, affronteremo i temi economici che ci sono. Le notizie in breve di questa giornata. Il petrolio aperto in calo a New York, un calo dell'1,5% a $74,91 al barile. E mentre l'oro invece tocca altri record. Al mercato di Londra le quotazioni hanno toccato i $1,276,35 l'oncia. Sulla piazza di New York i futures hanno raggiunto i $1,277,90. Si diceva dei dati americani. Le richieste di sussidio e disoccupazione negli Stati Uniti sono diminuite la scorsa settimana di 3.000 unità a quota 450.000, un dato che è nettamente migliore delle stime degli economisti. E poi il deficit corrente, il deficit delle partite correnti nel secondo trimestre, che si è attestato su $123,3 miliardi. Gli analisti si attendevano 125 miliardi, eppure, come vi abbiamo detto, i mercati non reagiscono bene. Notizie non particolarmente positive dalla Gran Bretagna, dove le vendite al dettaglio ad agosto sono scese di 0,5 punto percentuale su mese contro le previsioni che si attendevano una crescita dello 0,3%. L'aumento su base annua è stato dello 0,4%, ma le attese erano assai superiori, un più 2%. Buone notizie invece dalla Spagna, uno dei paesi considerati a rischio all'interno dell'Europa. Questa mattina ha collocato 4 miliardi di euro di titoli di Stato a 10 e 30 anni, vendendo il massimo obiettivo prefissato, riuscendo a pagare rendimenti in calo rispetto alle aste precedenti. Quelli con scadenza 2020 al tasso del 4,144%, in calo rispetto al 4,86% della precedente asta, e poi i titoli trentennali al 5,077% contro il 5,908%, insomma quasi il 6% precedente. Si diceva delle previsioni di Confindustria, la ripresa perde slancio secondo il centro studi che vede il PIL nel 2011 crescere dell'1,3%, una revisione al ribasso rispetto all'1,6 stimato in giugno. Quindi la ripresa perde slancio, serve uno scatto di reni nelle riforme, ci sono nodi strutturali non sciolti. E per quanto riguarda la disoccupazione, in 3 anni, dice Confindustria, si sono persi 480.000 posti di lavoro. Insomma, questa è la previsione per la fine del 2010 rispetto al 2008. E soprattutto l'occupazione non ripartirà prima dell'anno prossimo, con una stima del più 0,4% delle unità di lavoro e un tasso di disoccupazione che continuerà a salire terminando il 2011 al 9,3%. Buone le previsioni invece per quanto riguarda i conti pubblici, che Confindustria vede in linea con le previsioni del governo. E per quanto riguarda la stima del sommerso, della quale si diceva prima, c'è stata una brusca accelerazione nel 2009, ha superato il 20% del PIL, oltre il 27% se non si considera la pubblica amministrazione. Al sud, peraltro, è il doppio, dato che porta l'importo dell'evasione fiscale su valori molto superiori ai 125 miliardi stimati dal Centro Studi di Confindustria lo scorso giugno. Rivista a rialzo anche la stima della pressione fiscale, ad un livello ben sopra il 54% nel 2009, più del 51,4% stimato dal Centro Studi di Confindustria lo scorso giugno e del 43,2% della pressione apparente contenuta nei documenti ufficiali. Aggiunge il centro studi, è probabile che la recente espansione del sommerso sia stata determinata anche dall'abolizione nel 2008 di buona parte delle norme anti-evasione introdotte negli anni precedenti. Perché? Perché le norme abrogate avevano accresciuto la percezione di un inasprimento della lotta all'evasione e quindi aumentato la compliance spontanea, insomma la fedeltà fiscale spontanea, se vogliamo dirla così. C'è una replica dell'Agenzia delle Entrate, dice: dispiace che Confindustria affermi che l'evasione ha raggiunto livelli sbalorditivi senza riconoscere lo sforzo messo in campo tutti i giorni dall'Agenzia delle Entrate. Da notare che però si sta parlando nei dati di Confindustria del 2009. Il recupero di quanto sottratto alle casse dell'erario ha infatti toccato livelli mai raggiunti in passato, scrive l'Agenzia delle Entrate, che chiede l'aiuto di tutte le parti sociali. E in questa occasione Confindustria torna a chiedere un abbassamento delle tasse, un abbassamento della pressione fiscale, proprio con i risultati della lotta all'evasione. La presidente Emma Marcegaglia. Volevamo evidenziare che l'evasione fiscale è ovviamente molto alta in Italia, è nell'industria manufatturiera, c'è una percentuale molto più bassa rispetto ai servizi e soprattutto c'è poi una grande differenza tra sud e nord. Però insomma la nostra proposta è che gli introiti, almeno una parte degli introiti dell'evasione fiscale, vada proprio a ridurre le aliquote sulle aziende e sui lavoratori, ovviamente, che sono in regola con il fisco. Ecco, ci teniamo a sottolineare che nell'ultima manovra sono state inserite una serie di provvedimenti che dal nostro punto di vista vanno assolutamente nella giusta direzione, tracciabilità, tutta una serie di elementi e che quindi dal nostro punto di vista dovrebbero dare buoni risultati in tema di recupero dell'evasione fiscale e quindi noi proponiamo che almeno una parte di questi possa venire proprio utilizzata per abbassare le tasse su imprese e lavoratori, in ordine col fisco. Però ecco, la situazione rispetto al passato è migliorata perché nella manovra appunto di maggio ci sono iniziative e provvedimenti positivi che vanno nella direzione di una lotta seria all'evasione fiscale. Sappiamo che il tema è caldo, già iniziate a scriverci al 349 238 6666. continuate, lo approfondiremo dopo le 18, proprio specificatamente la questione dell'evasione fiscale, e ascolteremo qualcosina di più appunto da questo rapporto di previsione del Centro Studi di Confindustria. Aggiunge la Presidente degli Industriali che probabilmente il peggio è alle spalle, ma siamo ancora in una situazione incerta, riferendosi naturalmente alla ripresa economica. Bisogna mettere mano alle riforme che questo Paese ha per tanto tempo lasciato da parte. Aggiunge Emma Marcegaglia che Confindustria è pronta a collaborare con il governo, bisogna concentrarsi su economia, crescita e occupazione. Il governo sta cominciando a muoversi su questi temi, gli 8 punti di Tremonti noi li condividiamo, siamo pronti a fare la nostra parte, ma è veramente il momento di lavorare su questo. E poi la questione dei rapporti con le parti sociali, con i sindacati. Emma Marcegaglia invia oggi una lettera a tutti i sindacati, a tutte le associazioni di imprese, per invitarli ad un tavolo, per lavorare insieme su un piano di riforme, per cercare proposte condivise. E ancora dice che un primo incontro potrebbe esserci per fine settembre o inizio ottobre. Questa nella replica di Luigi Angeletti, segretario generale della UIL. Una buona idea. Mi sembra un approccio corretto e giusto nel cercare di affrontare i problemi che abbiamo. Poi ovviamente le questioni importanti saranno il merito. E quindi discutiamo però sul merito. Aggiunge Angeletti che è ora di pensare concretamente ad una riduzione del carico fiscale sulle buste paga dei lavoratori, e aggiunge che potrebbe aiutare ad incrementare la crescita perché stimolerebbe la domanda interna. È in corso in questi minuti, dovrebbe iniziare tra poco quantomeno, l'incontro del Ministro dell'Economia Giulio Tremonti con le regioni. Si parla di federalismo fiscale, il tema lo sapete, lo abbiamo affrontato ieri, l'ho affrontato ieri Sebastiano Barisoni con i suoi ospiti. Di oggi abbiamo da farvi sentire la posizione del presidente della Lombardia, Roberto Formigoni. Dice: parte il cantiere per garantire i servizi, insomma, perché si possano recuperare nuovi fondi. Ascoltiamolo. Noi abbiamo fatto una ricognizione completa nel corso di questi mesi, vedendo come si spalmano questi 700 milioni di trasferimenti in meno dallo Stato a Regione Lombardia. E abbiamo visto che le spese obbligatorie, cioè che nascono da contratti da noi già firmati negli anni scorsi, coprono quasi tutta la disponibilità. Con oggi parte quella che chiamo la fase del cantiere, la fase della costruzione. Siamo in campo per poter individuare delle nuove risorse. Con realismo possiamo oggi guardare con positività questa fase nuova che si apre, perché vogliamo garantire ai cittadini i servizi essenziali. Visto che i temi macroeconomici li abbiamo toccati poco fa, un paio di notizie appena arrivate, che in realtà sono delle dichiarazioni. Una è del segretario al tesoro americano Timothy Geithner, che continua ad accusare la Cina perché dice il ritmo dell'apprezzamento dello yuan, ossia la moneta cinese, è stato troppo lento e la sua ampiezza troppo limitata. E sempre dagli Stati Uniti, da segnalare che sta parlando in questi minuti il presidente americano Barack Obama, che lancia un obiettivo ambizioso. Dice: bisogna raddoppiare l'export entro il 2015, è un obiettivo possibile. E siamo però al tema di Fiat. A Torino, lo sapete, l'assemblea degli azionisti del Lingotto per il cosiddetto spin-off, ossia la divisione delle attività Fiat in due diverse società. Da un lato Fiat Auto, e quindi insieme alla Fiat stessa, al marchio Fiat stesso, Maserati, Ferrari e la componentistica Magneti Marelli e Texid, dall'altra Fiat Industrial, che raggruppa le produzioni di veicoli commerciali. I veicoli, macchine agricole CNH e FPT. Però sul fronte dei mercati le cose non sono andate particolarmente bene. Le immatricolazioni europee di Fiat sono scese del 23,9%, quasi il doppio della flessione generale del mercato, meno 12%, e la quota del lingotto si è ridotta, la quota di mercato naturalmente, al 6,6% dal 7,5% dell'anno prima e dal 7,7% di luglio 2010. Da segnalare anche nei primi 8 mesi 2010 il mercato europeo ha registrato un calo del 3% e Fiat ha perso il 13,7%. Bene ha fatto Renault con un più 13%, ha contenuto le perdite Volkswagen con un calo del 3,6%, Citroën ha fatto un più 1,9%, meno 8 la Ford, meno 8 Opel, peggio solo Toyota, meno 14%, mentre le cose continuano ad andare abbastanza bene per Fiat ad esempio in altri paesi, come ad esempio in Brasile, perché le immatricolazioni Fiat sono salite del 7,4% in agosto rispetto ad un anno prima, con un calo però del 2,5% rispetto ai primi 8 mesi del 2009. E però vogliamo restare sull'Europa e saluto Paolo Malagodi, docente di economia dei trasporti all'Università di Ancona e spesso nostro ospite quando affrontiamo questo tema. Buonasera Malagodi. Buonasera Spezia. E la ringraziamo perché sappiamo che è in viaggio, quindi ci sta concedendo questo suo tempo da un treno. Speriamo che la linea tenga. Io intanto le voglio chiedere come interpretare questi dati. Insomma, già ci scrive qualche ascoltatore al 349-238-6666 che alla fine è un problema di modelli. Insomma, è un po' che Fiat non ne tira fuori di nuovi. Ma guardi, faccio un ragionamento di fondo rispetto alla definizione oggi dello scorporo di Fiat Industrial rispetto a Fiat Auto. Mentre Fiat Industrial è un organismo già solido, che il CNH c'è il leader mondiale, direi quei tra i primissimi gruppi, quello di Fiat Auto è un cantiere ancora aperto, perché è aperto il problema di Fabbrica Italia, è aperta l'integrazione Fiat Chrysler, è aperta la crescita di una dimensione positiva che oggi è abbastanza ridotta, quindi gli ascoltatori hanno ragione, il cammino individuato è già definito, però per Fiat Auto occorrerà ancora del tempo, tant'è che la quota di mercato che Fiat sconti, maggiore perdita che non sul mercato europeo, dipende da due cose. La prima, la fortissima dipendenza da un mercato italiano che, lo ricordiamo, in agosto è sceso di oltre il 19%. La seconda, di una relativa debolezza di modelli in segmenti come il segmento C della media, nel quale noi abbiamo da bravo, e ci sono dei competitor che hanno prodotti, si chiama Wolf, Astra e 308, quindi è una competizione che oggi vede Fiat aperta sul piano dei modelli. Non parliamo poi di Alfa, che è un problema tutto da definire, perché la produzione Alfa non può essere affidata a un amico simile punto o a una veloce. E stiamo perdendo il professor Malagodi, già l'avevamo intuito perché qualcosina stava andando via, magari adesso proveremo un attimo a recuperarlo e nel frattempo possiamo iniziare ad andare sui temi dell'assemblea di Fiat di oggi e iniziare a sentire qualche voce da questa assemblea. Ebbene, invece che da Sergio Marchionne, questa volta iniziamo da John Elkann, il presidente della Fiat. Dice: è un'assemblea storica, nascono due Fiat forti, ambiziose, con persone pronte a realizzare gli obiettivi. Con questa assemblea nasce una Fiat legata alle automobili, che con l'alleanza con Chrysler si è molto rafforzata, essendo presente in tutti i mercati nel mondo con una gamma prodotti molto estesa. E poi nasce una Fiat Industrial, meno conosciuta, però altrettanto forte nei mestieri agricolo, movimento terra, veicoli commerciali, camion, e fabbricando i motori per tutti questi prodotti. Siamo molto orgogliosi di queste due realtà, che sono realtà forti, che hanno ambizioni importanti e soprattutto hanno persone che ci lavorano, che ci credano e che vogliono raggiungere questi traguardi. Allora, sempre John Elkann dice: non abbiamo paura del futuro. L'assemblea di oggi voterà per dar vita a due Fiat, forti, con ambizioni, obiettivi e soprattutto persone che ci lavorano, che sono pronte a realizzarli. In Fiat non abbiamo paura del futuro e quello che ci interessa è proprio costruirlo. Così dunque il presidente della Fiat, John Il Cane. Veniamo dunque alle parole di Sergio Marchionne. Dice: con questa scissione si apre un nuovo capitolo nella storia della Fiat ed è un grandissimo giorno per l'auto. E ancora il momento giusto per procedere alla scissione. Aggiunge anche, naturalmente, anche qualcosina di un pochino più finanziario, di un pochino più operativo. Ossia, viene confermato che Fiat e Fiat Industrial inizieranno ad operare con un indebitamento netto industriale pari a 2 miliardi e mezzo di euro per ognuno dei due gruppi, visto che il target attuale del gruppo Fiat per il 2010 è superiore a 5 miliardi di euro. E ancora, dice Marchionne, le due società nate dalla scissione avranno maggiore libertà di azione anche nel caso maturino possibilità di stringere alleanze. E poi il tema dei lavoratori. Dice: il progetto di scissione è un modo per assicurare ai lavoratori nel medio e nel lungo termine un porto molto più sicuro. Continuiamo a credere nella possibilità di portare avanti Fabbrica Italia. Ascoltiamo Marchionne. Il progetto Fabbrica Italia è troppo importante. Io dico onestamente, non è perché c'è la Fiat che è coinvolta, ma guardi, io sono appena tornato da Orlando, avevamo tutti, l'avete scritto anche voi, mi pare, avevamo tutti i concessionari della Chrysler, sia negli Stati Uniti che in Canada, in Messico e in altre parti del mondo. E il livello di entusiasmo che abbiamo visto ieri verso le attività industriali di questo gruppo è una cosa che non ho mai visto io nella mia carriera, ma non perché c'era il solito entusiasmo un po' folcloristico per l'azienda dell'auto, che è molto comune, ma perché c'era un interesse vero e proprio nel fatto che questa azienda in 16 mesi è riuscita a presentarsi dopo un silenzio piuttosto lungo, con una serie di prodotti, 16 nuovi prodotti tra i nuovi e quelli che sono stati, hanno ricevuto un facelift, abbiamo anche rivelato la 17ª vettura, che è la nuova Viper, che uscirà nel 2012. È stato fatto in una maniera molto silenziosa da gente che si è impegnata per risanare quell'azienda. Quando vedi quel tipo di atteggiamento, quando si vede gente semplice e umile che si mette a lavorare e risolve i problemi, mi dà un grandissimo senso di speranza anche per questo paese, no? Ma non perché voglio importare l'America qui, no, mi interessa più gente che fa che gente che parla. Qua si parla molto, cerchiamo di fare di più. Sembra che abbiamo recuperato il professor Paolo Malagodi. Sono molti messaggi che stanno arrivando, tra chi ci dice che la Fiat è destinata a chiudere perlomeno in Italia, chi ci dice ma la 500 non è piccola per le strade americane. Tra poco arriveremo anche al tema della 500. Allora, professor Malagodi, lei ci diceva la parte Fiat Industrial è quella sana. Devo dire che mentre ci parlavamo è uscita la notizia, almeno diffusa dalla FIOM, che CNH chiederà 12 mesi di cassa integrazione in deroga per i 600 lavoratori dello stabilimento di San Mauro Torinese, ma di nuovo il professor Malagodi ci è caduto. Quindi andiamo a risentire Sergio Marchionne. Si diceva della 500, ebbene, sentiamo che cosa ha detto. Fiat Group Automobiles è destinata a diventare, in combinazione con Chrysler, un produttore leader a livello mondiale, raggiungendo entro il 2014 la soglia di 6 milioni di vetture prodotte l'anno. Un altro elemento chiave su cui si basa il piano è l'utilizzo più efficiente degli impianti produttivi. La locazione delle nuove architetture è stata disegnata per rispondere a criteri di razionalità e di efficienza, in modo da saturare la capacità produttiva di entrambe le organizzazioni. Al lancio della 500, quindi tecnicamente potrebbe occorrere quest'anno, non sono sicuro, ma se non è dicembre, gennaio, quindi non è un grande problema. L'obiettivo è quello di arrivare al 35% entro la fine del 2011, quindi di far scattare gli altri 220 entro il prossimo anno. Quindi ci stiamo lavorando, abbiamo in effetti rispettato tutti gli accordi che avevamo preso con il Tesoro per quanto riguarda le varie tappe per arrivare al 35, ma una cosa importante per noi, guardi, è aver raggiunto le tappe. Poi quando vengono sganciati questi diritti quando vengono assegnate le azioni importa molto di meno. Legalmente non sono diritti che sono in dubbio. E poi sul fronte ancora di Fabbrica Italia e quindi delle eventuali deroghe al contratto nazionale dei metalmeccanici per cercare appunto di aumentare la produttività negli stabilimenti, l'amministratore delegato di Fiat si dice ottimista. Stiamo cercando di lavorare sia con Confindustria che con Federmeccanica per trovare una soluzione che dà la possibilità alla Fiat di implementare i suoi piani industriali andando avanti. Molto molto semplice, quindi c'è la massima buona volontà da parte della FIA di trovare una soluzione e sono incoraggiato da alcune cose che abbiamo visto negli scorsi 60 giorni. Le discussioni di ieri sono le discussioni di ieri, poi bisogna vedere un po' come portare avanti il discorso, ma credo che ci sia una buona volontà per portarlo avanti, quindi non il fatto che ci siano delle discussioni laterali importa fino a un certo punto, è importante andare avanti. Beh, non male la battuta di Nicola da Verona che dice il problema non sono le strade americane per la 500 ma come far entrare un americano in una 500, insomma riferendosi al tasso di obesità piuttosto elevato, ma appunto siamo nell'ambito delle battute. A Luca rispondiamo che da quel che ci risulta Sergio Marchionne rimarrà amministratore delegato tanto di Fiat Industrial quanto di Fiat. Si era sui temi sindacali, ebbene questa mattina è intervenuto anche il segretario generale della FIOM, Maurizio Landini, dunque sentiamolo proprio sul tema delle strategie di Marchionne, interpellato da Nicola Filippone, dal nostro Nicola Filippone dell'agenzia di stampa Radio Corriere Sole 24 Ore. Io vorrei semplicemente ricordare che il primo sindacato che ha detto di no alla Marchionne è stato Ligimetal quando ha detto che non erano disponibili al fatto che loro comprassero l'Opel. Io non lo so se avevano ragione i sindacati tedeschi o meno, dico però che non mi pare che il metodo e la cura Marchionne abbia particolari consensi, non solo in Italia ma anche fuori, e che quindi ci sarebbe bisogno, proprio perché la crisi è pesantissima e il problema, anche i dati di oggi indicano una caduta delle vendite senza precedenti, e qui più che nuovi modelli continueranno le persone a fare cassa integrazione, allora non è accettabile che l'unico governo in giro per il mondo che non affronta il problema anche con un'iniziativa pubblica di difendere l'industria sia il governo italiano, che non solo continua a non avere il ministro, ma dove è totalmente assente, anzi gli unici provvedimenti che il governo chiede di prendere, penso alla discussione in Parlamento, è cancellare lo statuto dei lavoratori, cancellare i diritti, cancellare il giudizio. Questa dunque è l'opinione di Maurizio Landini, segretario generale della FIOM. Nel frattempo parla anche il segretario generale della CGIL, Guglielmo Epifani, intervistato dall'ANSA. Dice: gli operai di Melfi sono persone che stanno pagando un prezzo non giusto in un clima sociale difficile e delicato interno alle relazioni industriali. E con le parole di Epifani dunque chiudiamo questo capitolo dedicato a Fiat. Ci ritroviamo subito dopo la pausa per parlare di mercati. Le 17:43 minuti in questo momento. Vi abbiamo detto che avremmo chiuso la questione Fiat. In realtà, proprio pochi istanti fa, il nostro Daniele Biacchessi ha intervistato il ministro del welfare Maurizio Sacconi. Dunque, ascoltiamo l'intervista. Che cosa insegna la vicenda di Pomigliano? Lei, citando Tony Blair, ha ricordato che nella dimensione collettiva chi decide divide, ma poi alla fine realizza il bene comune. Sì, penso proprio che Pomigliano si iscriva in questa logica, nel senso che Fiat non ha cercato l'incentivo a realizzare un grande investimento nel bilancio dello Stato come in passato, ma ha cercato questo incentivo nelle persone che lavorano nello stabilimento, nelle lavoratrici, nei lavoratori, nella gran parte delle organizzazioni sindacali che li rappresentano. E questo accordo consente di realizzare un investimento importante nel Mezzogiorno, può attrarre anche ulteriori investimenti, costituisce il presupposto per investimenti anche negli altri stabilimenti che potranno così essere maggiormente saturati e quindi se ne deve dedurre che bisogna andare avanti lungo la strada segnata, incoraggiati anche dalle dichiarazioni oggi di Marchionne che conferma l'investimento a Pomigliano, di cui sarebbero peraltro già partiti gli atti esecutivi. Che cosa manca per ampliare questo tipo di accordo anche ad altre situazioni produttive? Non si tratta di riprodurre l'identico accordo, si tratta di seguire le stesse esigenze individuando soluzioni appropriate per i diversi siti produttivi, cioè garantire una piena utilizzazione degli impianti e garantire che non vi siano comportamenti patologici come picchi di assenteismo in corrispondenza di alcuni eventi come accadeva in passato a Pomigliano, garantire insomma un sistema di relazioni industriali davvero cooperativo nel quale i lavoratori possano partecipare non solo alle fatiche nel tempo di crisi ma anche ai risultati nel momento in cui questi si producono, traducendosi in una crescita del salario come accade a Pomigliano. Sono circa 3.000 euro lorde quelle che si aggiungono al salario di un metalmeccanico di secondo livello che in base al provvedimento di governo saranno tassate, detassate, tassate favorevolmente con un'aliquota agevolata. Ecco Sacconi, restano però le divisioni all'interno del sindacato, non crede che queste divisioni possano pesare come nel passato anche nel futuro di questo percorso? Io so che ogni qualvolta le organizzazioni sindacali si sono divise, ne sono derivati atti importanti nell'interesse dei lavoratori. Ricordo il patto di San Valentino che fermò la dinamica inflazionistica prodotta dalla scala mobile e tutelò i salari dei lavoratori garantendo un decennio di grande sviluppo nel paese. La stessa cosa poi è accaduta con altri accordi. Certo, sarebbe meglio un sindacato unito nella modernità, ma sarebbe la cosa peggiore vedere un sindacato unito nella conservazione. Quindi la possibilità che una parte delle organizzazioni, come hanno fatto CISL e UIL, assumano la responsabilità di guidare il cambiamento rappresenta la cosa nelle condizioni date più utile per il Paese. E poi alla fine, come è sempre accaduto, anche i dissenzienti finiranno con l'accettare gli oggettivi risultati che ne derivano. Questo dunque è il ministro del welfare Maurizio Sacconi, intervistato da Daniele Biacchessi. Noi ci risentiamo subito dopo la viabilità, naturalmente per parlare di mercati, e vedremo anche appunto di capire se, come ci chiedete, la borsa ha già scontato lo spin-off di Fiat. Ebbene, siamo al momento dei mercati. Paolo Paronetto, Radio Corriere del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Mercati che non mi sembra siano stati particolarmente confortati dai dati americani, no? No, il mercato oggi è stata una giornata fiacca sin dall'avvio, il calo si è addirittura accentuato nel pomeriggio, infatti anche Wall Street, nonostante i dati macroeconomici tutto sommato in linea, se non migliori delle previsioni, sta perdendo adesso uno 0,2% sul Dow Jones e uno 0,4% sul Nasdaq, quindi anche tutta Europa in lieve calo. Milano è stata la peggiore tra le principali borse europee, e a pesare sono state in particolare le flessioni del settore bancario, dei titoli delle costruzioni e di Fiat, che è stata la peggiore del paniere principale. Sì, Fiat che è andata molto male. Ci chiedono se l'azienda, se il titolo in borsa che oggi ha lasciato sul terreno un 2,20% abbia già scontato lo spin-off dell'auto. Io immagino di sì, visto che è stato annunciato ben più di qualche settimana fa. Certo pesano i dati sulle immatricolazioni, Paolo. Sì, esattamente. Assolutamente, certo, l'effetto dello spin-off sulle quotazioni di mercato sarà tutto da analizzare nelle prossime settimane. Ricordiamo che proprio tra i motivi che hanno spinto il gruppo a annunciare questa scissione c'è proprio il fatto che si riteneva che le attuali quotazioni del titolo non incorporassero e non riflettessero il reale valore di tutti i business del gruppo. Oggi tuttavia a pesare sono stati proprio, secondo gli operatori, i dati sulle immatricolazioni in Europa in luglio e agosto, visto che i dati delle vendite di Fiat sono risultati in entrambi i mesi estivi decisamente peggiori dell'andamento del mercato. In particolare a luglio le immatricolazioni europee sono scese di poco meno del 19% contro oltre 31 per Fiat, e una differenza analoga anche in agosto, con conseguente riduzione delle quote certo. di mercato. Sì, certo Paolo, ti interrompo perché in realtà questi dati li abbiamo già forniti. Ti voglio adesso sui titoli migliori, insomma passiamo dal peggiore ai migliori, iniziando da Luxottica, un più 1,82%. C'entrano gli occhiali 3D in questa vicenda, come mai in questo rialzo di Luxottica? Esattamente, per quanto strano possa sembrare, secondo gli operatori di mercato e gli analisti, proprio l'annuncio arrivato ieri del prossimo lancio degli occhiali 3D che saranno commercializzati col marchio Oakley a partire dalla stagione natalizia 2010, oggi hanno sostenuto i titoli del gruppo, che è stato il migliore del paniere principale. Secondo ad esempio gli analisti di Bank of America Merrill Lynch, proprio questo business potrà dimostrarsi un importante driver per i ricavi del gruppo, soprattutto se nei prossimi mesi, con anche lo sviluppo delle tecnologie 3D, sarà seguito da accordi commerciali con i principali produttori proprio di queste tecnologie. Proprio la banca d'affari ha quindi alzato la raccomandazione sul titolo a buy dal precedente neutral, portando il target price a 23 euro. Luxottica oggi è tornata sopra i 20 euro per la prima volta da un mese, ha chiuso a 20,12 euro. Bene anche l'Ottomatica, un più 1,39%, ci sono motivi particolari? Sì, prima dell'apertura di borsa l'Ottomatica ha annunciato che la controllata Agitech, attraverso un consorzio, ha vinto la gara per la gestione della lotteria dell'Illinois, che al momento fatturava per Agitech circa 40-45 milioni di dollari, una cifra che secondo gli analisti potrà aumentare con il rinnovo di questo contratto. Questo sul fronte di Lottomatica, e bene anche Campari, insomma siamo andati sulle tre migliori, Campari un più 1,40%. Anche in questo caso proprio si tratta dell'annuncio di un'acquisizione arrivato in mattinata prima dell'apertura dei mercati. La società ha annunciato l'accordo, aveva raggiunto un accordo per rilevare da Williams, Grant & Sons tre marchi di liquori che hanno come mercato di riferimento principale gli Stati Uniti, una mossa che quindi permetterà a Campari di rafforzare la propria presenza proprio negli Stati Uniti, che è stata accolta positivamente dal mercato. Ultima domanda che ti faccio, ci hai detto che il settore bancario era debole, Unicredit in calo dell'1,89%, la Popolare di Milano che scende dell'1,5%, Mediobanca dell'1,20%, UbiBanca dell'1,10%, Intesa San Paolo di un punto percentuale, il Banco Popolare altrettanto, più o meno si salva il Monte dei Paschi, un più 0,87%, tra i pochi titoli in positivo. C'è un motivo particolare qua? Secondo gli operatori proprio segnalano per la flessione generale del comparto ancora, come dire, un riassestamento dopo i rialzi che erano seguiti all'annuncio dei nuovi parametri di Basilea 3, mentre per Monte dei Paschi vale ancora proprio secondo gli operatori quell'effetto di Basilea 3. Ricordiamo che i parametri fissati sono stati, diciamo così, meno rigidi di quanto temuto inizialmente e soprattutto la tempistica più dilatata. Monte dei Paschi, secondo molti analisti, era tra i titoli che era messa un po' peggio, che aveva un po' più di esigenze di patrimonializzazione, e quindi questi risultati la favoriscono allontanando i timori di un possibile soluzioni come aumenti di capitale, quindi anche oggi il titolo è stato premiato. Grazie dunque a Paolo Paronetto di Radio Cori Il Sole 24 Ore per essere stato con noi e buonasera. Grazie a voi e buonasera. Per concludere il quadro di giornata, Geox in rialzo dello 0,12%, Prysmian dello 0,08%, Saipem in pareggio, e così abbiamo chiuso i titoli in positivo, negative anche Eni dello 0,18%, Snam Rete Gas dello 0,21%, Pirelli dello 0,26%, giù Fondiaria Sai dello 0,32%, Terna dello 0,40%, così come Italcementi, ci diceva Paolo Paronetto della debolezza dei cementieri oggi, Mediaset scende dello 0,48%, Tenaris dello 0,64%, Enel e Atlantia dello 0,7%, Generali e Mediolanum dello 0,9%, così come Bulgari a ridosso del calo di un punto percentuale come il Banco Popolare, A2A, ST Microelectronics e Unipol, che cede un punto esatto, poco di più Parmalat, Intesa San Paolo, Autogrill e UBI Banca. Di Mediobanca abbiamo detto, Exor a ruota con Fiat meno 1,22%, Azimut meno 1,31%, CIR meno 1,32%, un punto e mezzo di calo per la Popolare di Milano in pregilo, Finmeccanica giù dell'1,63%, Telecom Italia dell'1,81%, Bus Unicem dell'1,81%, e con questo abbiamo chiuso. Allora, ultima che vi do, il cambio dell'euro contro il dollaro, 1,30,76. Ci ritroviamo subito dopo il GR delle 18. Le 18, 8 minuti e 48 secondi. A chi ci chiede di Tenaris, ci dispiace se l'abbiamo omessa nel dare i titoli sul FTSE MIB, il calo è stato dello 0,64%. Adesso cambiamo argomento e parliamo di Confindustria e delle previsioni del Centro Studi. Allora, tra poco verremo al corpo di queste previsioni, che parlano di una ripresa che perde slancio, ve lo accennavamo prima in apertura di Focus Economia, e soprattutto si soffermano sull'evasione fiscale. Ma prima vi facciamo ascoltare una dichiarazione della Presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, che riguarda il Ministro dello Sviluppo Economico. Abbiamo detto, secondo noi va fatto subito, andava fatto già tempo fa, la decisione è continuamente rimandata, però nell'ambito, noi non siamo per una politica industriale dove c'è un signore che decide quali settori vanno bene, quali settori vanno male, però siamo per una politica economica che crei le condizioni per la crescita, quindi ricerca, capitale umano, liberalizzazioni, infrastrutture. Il ministro dello sviluppo economico è colui che si deve mettere di fianco al ministro dell'economia, a tutti gli altri ministri, al ministro dell'economia che tiene i conti per proprio parlare di crescita e sviluppo, quindi ribadiamo la necessità di arrivare a questa nomina nel più breve tempo possibile, veramente auspichiamo che sia una decisione di a giorni, perché è molto tempo che viene rimandata. E dunque anche oggi, sulla scorta di queste dichiarazioni, in questo senso ha dichiarato tra l'altro anche il leader della UIL Luigi Angeletti, anche oggi vi diamo l'opportunità, per così dire, di votare. Da 135 giorni manca il ministro dello sviluppo economico, da 77 giorni manca il presidente della Consob. Potete votare al 349-238-6666, il vostro preferito, insomma, chi immaginereste al ministero dello sviluppo economico, come recitano gli annunci, astenersi per di tempo. Abbiamo ricevuto tra le varie cose anche Archimede, Pitagorico e Gastone, insomma, cerchiamo qualche nome serio. Veniamo al corpo del rapporto del Centro Studi di Confindustria. Si diceva la ripresa perde slancio, un PIL rivisto ad un più 1,3% per il 2011 dal più 1,6% stimato a giugno. E ancora, per quanto riguarda i conti pubblici, vengono visti in linea con le previsioni del governo. Il rapporto di autunno dunque conferma la stima per il 2010 di una riduzione dell'indebitamento netto al 5,1% del PIL. In tre anni sono stati persi 480.000 posti di lavoro, o meglio, saranno persi 480.000 posti di lavoro alla fine del 2010, 450.000 già a fine giugno, altri 30.000 sono a rischio. E poi il tema del sommerso. Il Centro Studi di Confindustria stima che il sommerso è bruscamente accelerato nel 2009, superando il 20% del prodotto interno lordo, oltre il 27% se non si considera la pubblica amministrazione, importo dell'evasione fiscale su valori molto superiori ai 125 miliardi che la stessa Confindustria stimava in giugno. Ed è probabile, aggiungono, che la recente espansione del sommerso sia stata determinata anche dall'abolizione nel 2008 di buona parte delle norme anti-evasione introdotte negli anni precedenti. Su questo, come si diceva, c'è il comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate. Si legge nel comunicato: dispiace che Confindustria affermi che l'evasione ha raggiunto livelli sbalorditivi senza riconoscere lo sforzo messo in campo tutti i giorni, appunto dall'agenzia, che chiede anche il supporto delle parti sociali. È proprio dalla lotta all'evasione che Emma Marcegaglia chiede di partire per una diminuzione delle tasse. Volevamo evidenziare che l'evasione fiscale ovviamente è molto alta in Italia, è nell'industria manufatturiera c'è una percentuale molto più bassa rispetto ai servizi e soprattutto c'è poi una grande differenza tra sud e nord. Però insomma la nostra proposta è che gli introiti, almeno una parte degli introiti dell'evasione fiscale, vada proprio a ridurre le aliquote sulle aziende e sui lavoratori ovviamente che sono in regola con il fisco. Ecco, ci teniamo a sottolineare che nell'ultima manovra sono state inserite una serie di provvedimenti che dal nostro punto di vista vanno assolutamente nella giusta direzione, tracciabilità, tutta una serie di elementi e che quindi dal nostro punto di vista dovrebbero dare buoni risultati in tema di recupero dell'evasione fiscale e quindi noi proponiamo che almeno una parte di questi possa venire proprio utilizzata per abbassare le tasse su imprese e lavoratori in ordine col fisco. Però ecco, la situazione rispetto al passato è migliorata perché nella manovra appunto di maggio ci sono iniziative, provvedimenti positivi che vanno nella direzione di una lotta seria all'evasione fiscale. E questo è il primo tema che affrontiamo, poi sentiremo qualche altra voce che riguarda più specificatamente i fronti della crescita, insomma gli altri temi del rapporto. Io saluto Salvatore Padula del Sole 24 Ore che ci ha raggiunto in studio, buonasera. Buonasera. Allora ti teniamo un attimo là, c'è la viabilità e subito dopo iniziamo a toccare questo tema. Per il ministro, lo precisiamo per l'ascoltatore, non è che vanno votati per forza persone che stanno in Parlamento, possono essere economisti, insomma personaggi di vario genere, manager di industria, non certamente un cane, seppur dall'altisonante nome del musicista Gustav Mahler. Allora, veniamo al tema dell'evasione fiscale, Salvatore. Dunque, Confindustria nota che in realtà l'evasione è cresciuta. Insomma, forse noi abbiamo avuto una percezione sbagliata nell'ultimo periodo. Beh sì, abbiamo avuto una percezione sbagliata, diciamo almeno in parte, nel senso che già devo dire dall'inizio di maggio, insomma, questa sensazione che in realtà in qualche modo la crisi e la congiuntura estremamente negativa spingesse, insomma facesse correre l'evasione, già l'avevamo avuta. Ricordo che proprio noi Sole 24 Ore a metà maggio titolavamo proprio l'evasione fiscale sale a 120 miliardi. Oggi Confindustria ci dice che abbiamo addirittura superato abbondantemente i 125 miliardi. Capisco tutto sommato il comunicato dell'Agenzia delle Entrate che in qualche modo dice ma insomma non vi rendete conto di tutto quello che stiamo facendo, che probabilmente è vero, c'è un'attenzione molto molto forte su questo problema. Abbiamo passato un agosto nel quale insomma non c'è stato giorno in cui non abbiamo avuto una notizia su un'operazione fatta, condotta, portata a termine brillantemente e di questo dobbiamo dare atto all'agenzia, ma evidentemente il problema è talmente profondo, è talmente grave che forse anche questi sforzi, che pure vanno apprezzati, non sono sufficienti. Quindi c'è un fronte di deterrenza che evidentemente non basta, c'è una capacità di deterrenza che non basta da una parte, dall'altra parte nota la stessa Confindustria, si sono tolti degli strumenti che potevano essere utili e forse sono stati rintrodotti con la recente manovra, cioè almeno in parte naturalmente. Sì, devo dire che con insomma gli ultimi due provvedimenti, il decreto 40 di marzo e poi il 72 di luglio, sono stati compiuti ulteriori passi che vanno a mio avviso nella direzione giusta. Certamente sicuramente quella fase, insomma, a ridosso del cambio di governo, il passaggio tra il centro-sinistra e il centro-destra nel 2008, quando su tutta una serie di provvedimenti il nuovo governo decise di fare marcia indietro, insomma, qualche perplessità che giustamente sottolinea Confindustria mi sembra corretta. Tenderei a non sottovalutare il peso della crisi economica, cioè ci sono studi direi anche abbastanza autorevoli, uno peraltro condotto proprio dall'Agenzia delle Entrate nel 2007, dai quali emerge, insomma, in modo abbastanza chiaro che nei periodi di recessione, nei periodi di difficoltà economica, c'è una tendenza crescente alla disonestà fiscale. E certo, naturalmente, perché uno dice, insomma, i soldi sono già pochi, il fatturato è poco, qualcosina lo nascondo perché così me lo tengo da parte, molto banalmente, no, sì, Salvatore? Diciamo che molto molto semplicemente, diciamo, il risultato è questo. Altri studiosi, ad esempio il professor Schneider, che è uno dei massimi esperti europei del fenomeno del sommerso, già a gennaio di quest'anno prevedeva che addirittura in paesi, diciamo, più evoluti e che sentono meno questo problema dell'evasione, il 2010 sarebbe stato un anno pesante, proprio perché a causa della crisi economica sarebbe aumentato il ricorso di lavoro in nero, di lavoro irregolare, e quindi tutto ciò avrebbe alimentato il sommerso. E quindi figuriamoci in un paese ad alta infedeltà fiscale come il nostro, no? Certo, certo, c'è un problema anche che pure mi sembra Confindustria vada giustamente a sottolineare, di settori e di aree territoriali. È evidente che, insomma, spiace dirlo, però da molti studi emerge che il Sud abbia una propensione maggiore all'evasione fiscale. Questo, attenzione, non vuol dire assolutamente che al Nord non esista l'evasione fiscale, ovviamente lo sappiamo, esiste certamente anche al Nord. E come lo stesso discorso che viene fatto sui settori, ci sono alcuni settori che mostrano una tendenza a questi comportamenti più accentuati di altri, come secondo me giustamente sottolinea il rapporto Confindustria. Bene, grazie a Salvatore Padura del Sole 24 Ore per averci anche aiutato a capire questo nuovo allarme lanciato, anche a dare qualche chiave interpretativa, come per esempio quella della crisi economica. Grazie Salvatore, buonasera. Buonasera, grazie. Prima di chiudere, vi facciamo ascoltare un altro paio di voci, sempre la Presidente degli Industriali, Emma Marcegaglia, al microfono del nostro Vincenzo Miglietta, più in generale sulla fotografia dell'Italia sul fronte della crisi. Un'Italia che probabilmente si lascia il peggio alle spalle, che però vede ancora una crescita incerta, più bassa rispetto alla media europea, un tasso di disoccupazione che aumenterà ancora un po' nel 2011, quindi una necessità assoluta di tornare a crescere a livelli maggiori. Noi cresceremo dell'1,2% quest'anno, la Germania del 3,4%, l'area euro 1,7-1,8%. Quindi il tema della crescita deve essere un tema centrale, non dobbiamo solo fare politica di rigore, che noi condividiamo, ma dobbiamo tornare a occuparci di crescita. I temi sono noti, noi li abbiamo detti nei nostri documenti vari: capitale umano, infrastrutture, liberalizzazione, ricerca, pubblica amministrazione. Adesso è venuto veramente il momento di affrontarli e di farlo seriamente. Il ministro Tremonti e il governo intendono, anche in vista del patto di stabilità e crescita europeo, fare questo piano. Noi siamo pronti a collaborare, l'importante è che le cose si facciano seriamente e si facciano in un tempo limitato, perché non possiamo aspettare. E proprio in quest'ottica, nell'ottica della crescita, ci vuole l'accordo con le parti sociali, insomma una ricerca di un accordo, se ne è parlato molto nei giorni scorsi, che dia maggiore produttività e quindi maggiore competitività, e dunque lettera della stessa Presidente di Confindustria alle parti sociali. Non so se ricordate che all'Assemblea noi avevamo fatto questa proposta di, diciamo, assise, tavolo di tutte le parti sociali per parlare in prima battuta di produttività, che è un tema che ci riguarda da vicino, ma poi anche proprio per condividere un piano di riforme. Abbiamo atteso qualche tempo, diciamo, poi c'era l'estate, poi c'è stata la vicenda Pomigliano. Oggi, proprio stamattina, ho firmato una lettera in cui invito tutte le altre associazioni d'impresa e tutti i sindacati a riunirci, tra l'altro già già in passato, nei mesi scorsi c'era stata una adesione, insomma un apprezzamento anche da parte sia dei sindacati che delle altre associazioni di imprese per riunirci e condividere questo piano di riforme. Quindi oggi stesso ho mandato la lettera e e ci riuniremo nei prossimi giorni e proveremo proprio a condividere un piano di proposte di riforme. Io credo, ho l'impressione che su tanti temi il punto di vista è lo stesso, insomma, quindi questa riunione si terrà insomma o fine settembre o primi giorni di ottobre. 18 e 25 minuti, siamo quasi in chiusura e siamo in studio con Giuseppe Cruciani, tra poco la Zanzara. Allora Giuseppe, che cosa ci offri stasera? Eccoci, allora continueremo a parlare della cosiddetta, anche se molti la negano, compravendita di senatori e deputati per formare questo chimerico gruppo di responsabilità nazionale. Avremo un deputato eletto all'estero dell'Italia dei Valori che si chiama Razzi, il quale dice: mi hanno offerto anche dei soldi per pagare il mutuo. Ci spiegherà tutto questo, chi l'ha contattato, eccetera, eccetera. E poi altri ospiti fino alle 21, come sapete. Bene, grazie dunque a Giuseppe Cruciani, ti ritroveremo dunque tra poco. Noi chiudiamo qua questa puntata di Focus Economia. Un ringraziamento a Paolo Corleoni in regia, Mauro Del Corno e Barbara Bianchi in redazione. Il programma torna domani dopo il GR delle 17. Radio 24. La passione si sente.